alma mia si salterà, l'ora bella per danzare, chi in amor non mancherà, dalla luna in mezzo al mare, mamma mia si salterà, l'ora bella per danzare, chi in amor non mancherà, dalla luna in mezzo al mare, mamma mia si salterà, presto in fondo, fondo, fondo, donne mie, venite qua, un garzon belleggio con doccia, finché c'è il bronzo una stella e la luna splenderà, il più bel con la più bella tutta notte danzerà, mamma mia, dalla luna in mezzo al mare, mamma mia si salterà, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, mamma mia si salterà, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, mamma mia si salterà. Mamma mia, ti salterà.